tramonto con il batticuore. Attacco l'anima a un aquilone che mi porta via. Ieri ho fatto schifo, sono tornato alle 9 e ho sentito alla radio che potrebbe piovere. Fumo sul divano, so che non mi posso muovere. Oggi voglio piangere, voglio farmi commuovere. Che dentro un buco nero, un dubbio giornaliero, mi fa sentire nel mio corpo come uno straniero. E poi mi ritrovo qua sopra pensiero. Non mi conosco più, sarò sincero. Poi mi dicono da Davide, ma dove vai? Oggi come stai? Come mai? Non rispondi mai, fra ritornerai? Non lo so. Io mi voglio perdere tra Saturno e Venere. Voglio stare bene che mi sono seppellito. Ho messo via il mio cappello preferito. L'altra metà di me mi punta sempre il dito. Lei mi dice sei impazzito. Mi sa che non ha mai capito che io sono diverso. Oggi non posso essere altro che me stesso. Io sono diverso. Non so se è meglio o peggio. Unico nell'universo. Io sono diverso. Ancora senza freni, innamorato dell'eccesso. Io sono diverso. Unico nell'universo. Proprio come te, non sentirti in colpa se non ci siamo capiti che certe volte incastrare i pezzi è più difficile. Ora piano piano ci lecchiamo le ferite. Ora piano piano risaliamo in superficie. Io non so se esci con quello, non lo so perché non ci penso. In salotto regna il silenzio, poi fumo 800 un incenso. Nei mesi d'inverno in corpo ha un malessere immenso. Ma questo fanno gli artisti. Si lanciano negli abissi. Sanguiniamo al posto tuo perché possiamo capirti. Ma so che se rimani qua mi rattristi. Come quel pezzo là di Battisti. Andiamo allora. Rivolgo la mia follia perché la amo ancora. Rimango ad occhi chiusi tipo un quarto d'ora. E quando se ne va la malattia ne voglio ancora. Te l'ho detto che io sono diverso. Oggi non posso essere altro che me stesso. Io sono diverso. Non so se è meglio o in peggio. Unico nell'universo. Io sono diverso. Ancora senza freni, innamorato dell'eccesso. Io sono diverso.